Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, è domenica 30 giugno 2013 e questa è la 102esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Dopo la gravidanza di Sara Razzoli c'è un'altra bella notizia all'interno della redazione. La nostra Valentina Reggioli si è finalmente dottorata in fisica, possiamo quindi andare in vacanza tranquilli. Con la puntata di oggi, infatti, chiuderemo la stagione invernale 2012-2013 e il formato extra large domenicale della durata di 30 minuti di Restiamo Animali andrà in ferie. Ma non temete, non vi abbandoneremo del tutto. L'animalismo radiofonico continuerà a offrirvi notizie, informazioni e storie nel suo formato small, dal taglio giornalistico che punterà all'attualità e che andrà in onda ogni giovedì per 15 minuti a partire dalle 9.30. E veniamo al sommario di questa puntata. Roberta Marino, nostra corrispondente da Milano, vi ha già offerto numerosi servizi, ma non ve l'avevamo ancora presentata. Per rimediare, la sottoscritta, Camilla Lattanzi, ha intervistato Roberta che si presenta agli ascoltatori di Restiamo Animali. Per la rubrica Visti da vicino, torniamo al rifugio faunistico Monte Adone di Sasso Marconi. La tigre dello zoo di Napoli ancora non era arrivata al rifugio quando lo abbiamo visitato noi, ma c'erano già tigri e leoni. Oggi dunque vi parleremo di grandi felini. Per la rubrica di attualità Animal House abbiamo realizzato un servizio dal canile di Lanuvio, un canile alle porte di Roma. Con l'arrivo delle vacanze e gli abbandoni dei cani, che purtroppo connotano sempre questa stagione dell'anno, ci sembrava doveroso dedicare un servizio a un canile che di cani ne accoglie veramente tanto. Restando nella zona di Roma, per la rubrica Il Pasto Gentile vi offriamo un vero scoop. Il nostro chef del cuore, Simone Salvini, che attualmente dirige il ristorante Ops di Roma, in via Bergamo, ci ha fatto entrare in cucina e noi abbiamo spiato con tanto di telecamera la produzione di una torta al cioccolato delle sue. Vale la pena ascoltare la sua intervista e godersi lo spettacolo del filmato che abbiamo messo su YouTube. Infine, per le perle letterarie, siamo andati a conoscere Aida Vittoria Eltanin, blogger e divulgatrice di successo, autrice del libro La dieta di Eva, un testo molto atteso dopo l'enorme successo su Facebook della proposta 21 giorni nell'Eden, una proposta di conversione all'alimentazione cruelty free accolta e seguita con entusiasmo da centinaia e centinaia di persone onnivore. Hanno collaborato a questa puntata Camilla Lattanzi, Roberta Marino e Lorenzo Guadagnucci. E almeno con il pensiero Valentina Reggioli, mentre si stava dottorando in fisica. Sono con Roberta Marino, la nostra corrispondente da Milano. Ancora non l'abbiamo presentata ai nostri ascoltatori. È arrivato il momento di farlo. Roberta, ciao. Ciao. Io vorrei sapere, ma anche i nostri ascoltatori vorrebbero sapere, qualcosa di personale su di te. Intanto, quando hai cominciato a praticare e anche attivarti come animalista, attivista? Tutto è partito dall'università, che avevo intorno ai 20 anni, quando ho conosciuto un seminario di sociologia del diritto il professor Valerio Pocar, che adesso tutti ben conoscono, il quale mi ha illuminato perché all'interno di un seminario si poteva trattare anche il tema dei diritti degli animali. Poi ho fatto una tesina per poter superare l'esame comunque di sociologia del diritto e lì ho letto tanti testi, mio malgrado, perché comunque dovevo studiare e intanto piangevo per le cose che ero costretta a leggere, e da lì è partito tutto. Ho cominciato a eliminare la carne da lì gradualmente. Ancora ricordo questo aneddoto: di poco prima dell'esame io mi ero mangiata una cotoletta, l'ultima cotoletta della mia vita, perché avevo così la fissazione che se non mangiavo la carne non superavo l'esame. E poi mi sono data della rimbambita, non so se si può dire così. Ti sei laureata lo stesso? Sono laureata benissimo da vegetariana all'epoca, perché ero vegetariana e come tutti i vegetariani avevo incrementato il consumo di formaggi, latticini, esagerando. E poi sono arrivata un po' di anni dopo, forse una decina d'anni dopo, a diventare vegana. Anche lì è partito da un esperimento, diciamo, proprio sul campo, nel senso che ero all'interno di un campo WWF in vacanza e siamo andati a visitare un'azienda biologica di mozzarella di bufala. Mi aspettavo un posto bucolico, paradisiaco, meraviglioso, e invece mi sono trovata davanti, a parte il primo impatto, un bufalino, una serie di bufalini chiusi in questi prefabbricati microscopici, isolati dalle mamme, ovviamente sempre come accade per i vitelli. Poi nei recinti un bufalo adulto morto insieme agli altri. E poi la mungitura, quella meccanica, non manuale, al che ho detto, ma non era quello che mi aspettavo. E da lì ho detto no, io alla fine del percorso, poi tutti ad assaggiare la mozzarella, tutti ben contenti, a me veniva veramente il disgusto e non ce l'ho fatta, e ho cominciato a eliminare quello. E poi da lì è stata tutta una serie di altre cose, poi tramite amicizie mi sono avvicinata a questo tipo di alimentazione e adesso sto andando anche un pochino oltre. Che cosa stai combinando? E adesso mi sono avvicinata un po' al crudismo, un po' tanto, soprattutto in estate, partendo da un discorso più che altro di salute, perché effettivamente si parte un po' così in questo caso, aumentando il consumo di alimenti crudi. Più che altro, ero partito molto insalata all'inizio del passo, così, e poi ho cominciato a trovare libri sull'argomento, e poi da una cosa lascia l'altra. Ricettine, qualcuna mi sono anche un po' cimentata a farla, poi se no vado anche su cose molto semplici, veramente un'insalata con frutta secca e poi tanta tanta frutta, che in estate è veramente solo un toccasana. Abbiamo fatto quindi un viaggio nella tua storia alimentare. Adesso facciamone uno nella tua storia di animalista attivista. Che cosa hai fatto e che cosa stai facendo adesso? Sono sempre stata amante degli animali, ma come dicono un po' tutti, più che altro dei cani, gatti, così. E poi ho iniziato a fare volontariato all'interno di rifugi per animali abbandonati e varie associazioni che prestavano soccorso, ambulanza per gli animali, però era sempre un po' limitato al discorso cani, gatti, comunque animali domestici. Poi ho cominciato a conoscere altre persone che mi hanno aperto gli occhi su tante cose, e da lì poi ho cominciato a partecipare a manifestazioni, a presidi contro le pellicce. Vabbè, a Milano, non so se gli ascoltatori ricordano la campagna d'attacco all'industria della pelliccia, che aveva preso come obiettivo la Rinascente, che è andata avanti per un bel po', e da lì poi ci sono state altre campagne legate a Shaq e la cosa è andata avanti, e adesso vabbè sto un po' coronando il mio sogno partecipando a questo programma di Controradio Restiamo Animali, perché... Ma diciamolo, mi risulta che come esperienza radiofonica questa non sia la prima. Sì, ho collaborato per una decina d'anni con Radio Popolare, mi occupavo di un po' di tutto. Sicuramente adesso è un discorso a 360 gradi, cioè parliamo di animali, parliamo di vita vegan, parliamo di rispetto dei diritti degli animali, parliamo di tante cose che a me premono veramente. Per me è veramente un sogno che si corona. Avrai di che sognare, di che coronare. Grazie per quello che stai facendo. E... Grazie a voi, è un piacere avervi conosciuto. È stato da lì veramente che mi si è aperto un altro mondo, dopo tutti gli altri. Roberta Marino, Restiamo Animali? Restiamo Animali, sicuramente. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. siamo davanti a dei fenomeni bellissimi, sembrano delle pitture astratte. Sono le tigri che ci riportano così alle letture giovanili delle tigri di Mompracen, una sbadiglia, e sono tutte e tre accoccolate all'ombra nella struttura che le ospita. Chiedo a Mirka di raccontarci la loro storia. Questo è un sequestro piuttosto famoso, perché è stato fatto grazie anche alla denuncia di Striscia la Notizia. Erano tigri che erano in un canile in Lombardia. Sono state sequestrate sia per detenzione illegale che per maltrattamento, anche se la detenzione illegale è ancora tutta da appurare, in quanto nati da esemplari in cattività di proprietà di questa persona. Purtroppo gli spazi che avevano a disposizione erano veramente terribili, pochi metri quadri sul cemento e soprattutto anche in un luogo dove non arrivava il sole, perché l'ombra va bene ma ci vuole anche il sole. E quindi uno di loro è cresciuto in maniera proprio in maniera sbagliata, insomma, quindi è rachitico, ha le gambe più corte e soprattutto a causa della sua fragilità ossea si è prodotto una frattura spontanea, quindi ha una gobba sulla schiena che si è calcificata così e che non potrà mai più guarire. Voi lo state vedendo sdraiato, quindi non potete capire, ma lui ha un anno più degli altri due che sono uno di fianco all'altro, ma è alto la metà, cioè è proprio piccolo, con le gambe corte. La testa è molto bella, ma è così. Quando è arrivato non si muoveva neppure, non riusciva neanche a muoversi in maniera normale, ecco, quindi non sapeva correre, non si arrampicava. Adesso sta bene, è stato curato molto a lungo e ancora sta facendo delle terapie, perché comunque anche uno degli altri due esemplari soffre di artrosi. Abbiamo fatto delle ecografie, ha delle artrosi come se fosse un animale vecchio, invece ha solo 3 anni. Lo stiamo curando ancora adesso anche lui, stanno meglio, si muovono, corrono, si tuffano nell'acqua, fanno i bagni, fanno tutto quello che possono fare, però si vede se si mettono in movimento due di loro, si capisce molto bene ciò che hanno passato. E adesso il momento è molto emozionante perché siamo di fronte a degli autentici leoni, qui c'è un maschio e una femmina che sono accucciati come due gattini, ma sono all'interno di una struttura protettiva per loro, ma soprattutto credo per noi anche. Che storia hanno questi leoni? Allora, i leoni sono tre, c'è una femmina là dietro e qui sono maschi e femmina in coppia. Partirei a raccontare la storia della più anziana, che ha 21 anni, si chiama Sissi ed è stata abbandonata dai fotografi di spiaggia alla fine della stagione turistica sull'argine del Marecchia a Rimini, dentro una cassa di legno. Questo risale al 91, lei infatti ha 21 anni. Beh, la storia dei leoni è un po' anche la nostra storia, perché quando noi ci siamo trasferiti qua da Bologna su questa collina, era l'89, noi non pensavamo di fare tutto questo, non pensavamo né di avere leoni né di avere scimpanzé. Pensavamo esclusivamente, in maniera anche marginale, di occuparci della fauna selvatica nostra, autoctona. Questo erano le fusa della leona, sì. Della leonessa. Dicevo che era quello lo scopo iniziale ed è anche quello che comunque stiamo facendo, cioè occuparci di quegli animali che una volta curati possono ritornare in libertà. Il pensiero di tenere un animale dentro la gabbia tutta la vita non era sicuramente né nei nostri progetti né nei nostri sogni. Però ci siamo arrivati per forza di cose. Il primo anno che abitavamo qua ci telefonarono da Rimini perché era stata abbandonata dai fotografi di spiaggia una leonessa, non Sissi, un'altra, perché per quella e altri due noi siamo riusciti a trovare una sistemazione decorosa in Francia, in un parco zoo, in un zoo safari, dove stavano formando il branco di leoni tutti della stessa età. Questo è uno dei metodi possibili in animali sociali come lo sono i leoni. Quindi crescendoli da piccoli insieme, facendo un gruppo affiatato che poi può essere liberato nel parco. Effettivamente il parco di Thoiry è molto bello, ben gestito ed è anche molto grande e i loro leoni arrivano anche a una ragguardevole età, cosa che non è sempre frequente. Quindi hanno accettato tutti e tre i nostri leoni, una delle, di queste, una femmina, era stata abbandonata addirittura sull'autostrada, sempre dai fotografi di spiaggia, era stata in un altro zoo in Italia, senza fare nome, dove avevano inutilmente tentato di inserirla nel branco con il rischio quasi che fosse uccisa. Quindi era da sola in una gabbia, per cui l'abbiamo portata in Francia, lei, un altro maschio, ed è andata bene, insomma. L'anno dopo il canile di Rimini aveva il nostro telefono e quindi ci ha chiamato per altri tre leoni, che noi abbiamo svezzato a biberon tutta l'estate, mia figlia allora era adolescente, ha trascorso la sua estate così, e poi abbiamo cominciato di nuovo le ricerche e per quelli siamo riusciti a trovare un altro parco che aveva una femmina con due cuccioli della stessa età dei nostri, e quelli del parco hanno detto in altre occasioni ha adottato. È andata bene, li ha adottati e li ha fatti adottare al branco. L'anno dopo invece l'anno di Sissi, il 91, e di Kim, che era arrivato sequestrato dalla Capitaneria di Porto di Rimini. Per loro abbiamo chiesto a Francia, Austria, Inghilterra, Germania, Italia, America e Africa, senza trovare niente. Pensate che a quei tempi non c'era internet, quindi non è stato facile, è stato bello laborioso. Per cui abbiamo costruito la prima gabbia del centro, che non è questa, la gabbia era più piccola, era in un altro posto del centro. Questa è una bella struttura, è più di 800 metri quadri, ha una parte coperta che è la casetta coambientata, una parte coperta con la tettoia e una parte completamente scoperta a cielo aperto. È divisa dagli altri, però sono insieme. È divisa perché lei è molto anziana, loro hanno rispettivamente 3 anni e 2 anni. Lui si chiama Leo e lei si chiama Cora. Sono esuberanti, sono giocherelloni, potrebbero farle male anche inavvertitamente. Adesso il leone è accucciato, molto tranquillo, all'ombra, e la leonessa invece è andata a fare una passeggiata nella zona scoperta, ha fatto tutto il giro e ora sta tornando vicino al maschio, con il suo passo molto, molto aggraziato, con la flemma dell'ora calda, e si è riaccucciata anche lei maestosamente vicino al leone. Notizie, interviste, attualità. Oggi vogliamo parlarvi di cani, a partire da un caso che abbiamo incontrato durante una nostra visita nei castelli romani intorno a Roma. È l'occasione anche per affrontare la questione del randagismo, che in estate sistematicamente si ripresenta. Il rifugio per cani del quale oggi vi parliamo è localizzato nelle campagne del comune di Lanuvio. È condotto da un'associazione animalista del posto, con pochissimo sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, e da anni lotta per salvare cani, custodirli, offrire un riparo, affidarli in adozione, in zona e anche nel resto d'Italia. Ci sembra un caso emblematico di una situazione molto molto problematica. Le istituzioni pubbliche sono molto carenti sotto il profilo della tutela degli animali e della lotta anche al randagismo. Specie nel centro e sud d'Italia non esistono strutture pubbliche, ma anche nella nostra regione, nel nord Italia, è difficile individuare una provincia, una città, dove si possa dire che sussiste una situazione ideale per la considerazione che viene riservata agli animali e alle loro esigenze di tutela e protezione da parte delle istituzioni pubbliche. Siamo a Lanuvio, in provincia di Roma, a un rifugio per cani gestito dal gruppo animalista dei Castelli Romani. Ci sono circa 210 cani ospiti in questo momento in questa struttura gestita da volontari, e parliamo con Carla, una delle responsabili di questo rifugio. Carla è una volontaria di questa struttura. Ecco, qual è la situazione di questo rifugio? Qual è il suo problema attuale? Il problema attuale sono i finanziamenti. Finanziamenti che praticamente non arrivano, e le istituzioni sono completamente assenti. Il Comune di Lanuvio fino a gennaio ci ha dato un contributo di 1.300 euro mensili, e il comune di Marino ci dà invece 7.000 euro l'anno. Il comune di Marino è l'unico che praticamente ci paga i cani che ha presso di noi a pensione. Tutto per una convenzione fatta con le regioni a suo tempo, adesso è difficile, è lungo spiegare. Comunque l'Anuvio da gennaio si disinteressa completamente di questo rifugio e della nostra associazione. Ci ha tolto il contributo. I cani che troviamo al cancello e che dovrebbero andare al canile sanitario per poi essere avviati al canile ad vitam non vengono presi. Noi ci troviamo tutte le volte, facciamo la denuncia scritta e poi ovviamente il cane ci fa pena e ce lo dobbiamo mettere in rifugio. Ultimamente una mamma con 8 cuccioli che ci viene a costare ben quasi 400 euro solo di vaccini per i cuccioli e poi la sistemazione, trovare la collocazione ai cuccioli. Altri 2 cani, 2 pitbull e un cane, un meticcione, che non abbiamo potuto introdurre al rifugio perché non avevamo proprio posto e dopo 2 giorni è scomparso. Quindi è pure brutto perché poi povera bestia va a aumentare il randagismo che c'è purtroppo nel comune di Lanuvio, una cosa vergognosa. Tutte le vie dove si gira con queste campagne è pieno di randagi, di cuccioli buttati a bordo strada, cani morti. Nessuno fa nulla, per loro è tutto normale e va bene così. Alzano le spallucce, non ci sono i fondi, non ci sono i soldi. Quando non è vero, basterebbe magari sovvenzionare meno qualche festa paesana stupida e dare il contributo a noi. Certo, evidentemente è una scelta che è stata fatta dagli amministratori, non è una fatalità quella di togliere i fondi. Questo taglio che conseguenze ha sul rifugio? E noi abbiamo ancora questo mese di autonomia perché bene o male le offerte, qualcuno mi ha dato un'offerta sostanziosa e questo mese ce l'abbiamo più o meno di autonomia. Il mese prossimo proprio non so dove andremo perché le crocchette stanno finendo, quindi gli operai ovviamente se non vengono pagati non lavorano, giustamente, e non lo so come finiremo. Porteremo le chiavi al sindaco, andremo alla procura della Repubblica a denunciare il sindaco, è l'unica soluzione possibile. Questo rifugio di fatto fa le veci di quello che sarebbe una competenza del comune? Di fatto fa le veci, anche perché era stata iniziata la costruzione di un canile consortile che doveva riunire tutti i comuni dei castelli romani e sono stati spesi 250.000 euro. È stato fatto un lotto di box brutti, malfatti, fatiscenti, fatti male e adesso il canile sta marcendo buttato là dove è stato fatto, tutta la struttura sta diventando obsoleta e i soldi sono stati buttati. In che modo è possibile aiutare questo rifugio? Con delle donazioni e adozioni magari di cani, perché abbiamo dei cani bellissimi, buonissimi, sono tutti naturalmente vaccinati, sono tutti quasi tutti controllati per la Leishmania, l'Erlichia. E sono cani sani, gioiosi, buoni, quindi magari con qualche adozione ci farebbe piacere. Bene, grazie alla signora Carla e metteremo tutte le indicazioni per le adozioni e per le donazioni sul nostro blog in modo che chiunque possa contribuire se vuole alla sopravvivenza di questo rifugio. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. sfogliando un giornale nella sala d'aspetto di un medico, ho scoperto che Simone Salvini è impegnato in questo momento in un suo nuovo progetto. Si tratta di un ristorante a Roma, si chiama Ops. La formula è quella del self-service. Scorrendo lungo il bancone, vediamo la scritta su una grande lavagna, specialità del giorno, borlotti ayurvedici con latte di cocco e carpaccio di verdure. Cominciamo a descrivere quello che offre il buffet. Riso venere, tofu, piselli e pomodori secchi, pasta gratinata vegan, orzo con carote, sedano e semi di finocchi, riso tandoori, couscous con friggitelli ed erbe, farro con rucola, carote e zucchine, bocconcini di soia al latte di cocco, ceci all'indiana, fagioli alla mediterranea, seitan ops, carpaccio di zucchine con limone anice stellato, carpaccio di carote con arancia e cannella, carpaccio di pera, noce moscata e uvetta, hummus di ceci, carpaccio di funghi, patate a vapore, insalata di peperoni, friggitelli al forno, funghi al forno, patate arrosto, melanzane al forno, zucchine al forno, verdure fritte in pastella di ceci, maionese vegan, senape e tanti semi per decorare i piatti. Una volta che il piatto è stato riempito, si passa in una zona cassa dove ci sono le bilance, si pone il piatto sulla bilancia, la bilancia segnerà il peso del contenuto, verrà fatta la tara dei piatti che sono tutti uguali e si stabilisce così la spesa. A questo punto si ordinano anche i dessert, in questo caso c'è un dolce vegan cioccolato prugne e ciliegie, un tiramisù vegan latte di cocco e arance e una torta al cacao, nonché coppette di frutta, plum cake, carote e cioccolato, cheesecake, tofu, gelatina arance. Per bere, oltre a una ricca scelta di vini e birre, ci sono anche le tisane e naturalmente i centrifugati di frutta e verdura in varie formule in modo da accontentare tutti i gusti ed è possibile naturalmente avere poi anche il caffè. Simone ora è qui con noi e sta scarabocchiando, ha tanti progetti per la testa, ma io gli volevo chiedere due parole sulla formula di questo Ops. Questo locale nasce con l'intento di servire cibo vegetariano. Tu prima hai parlato di scelta vegana, lo è sostanzialmente, però noi preferiamo dichiararlo vegetariano per una così scelta anche comunicativa, più rassicurante. Il cibo è servito a buffet, quindi è un progetto, se vuoi, democratico, perché una persona che ha poca fame prende poco e spende poco, una persona invece che ha molta fame prende molto cibo e spende ovviamente di più. La vedo anche come una formula cruelty free in senso più ampiamente ecologico, nel senso che non ci sono sprechi, non si manda indietro probabilmente tanto cibo come accade in un'altra formula di ristorazione. Sì, queste sono ricette fatte ovviamente seguendo la codificazione vegana, quindi i dolci sono fatti esclusivamente con prodotti vegetali, hanno un bassissimo impatto glicemico perché io utilizzo pochissimo zucchero e non utilizzo farine raffinate e neanche zuccheri raffinati. È una ricetta, io più che ricetta vorrei dare dei consigli, innanzitutto vorrei consigliare di utilizzare prodotti del territorio. Sembra una, così, una formula banale, ma questa è una soluzione secondo me anticrisi. Sai, in India si dice che bisognerebbe sempre mangiare prodotti del territorio perché siamo in risonanza con loro, abbiamo respirato la stessa aria, ci siamo sostanziati delle stesse energie, quindi siamo quasi in risonanza. Come si inventa una ricetta? Come si trova una nuova formula? Beh, stando sul campo, quindi sperimentando, stando sempre a cucinare tutti i giorni, spesso vengono fuori anche delle cose sorprendenti. L'importante è essere curiosi, osservare la natura, osservare anche l'operato di altri chef. Quindi le illuminazioni avvengono per diversi motivi. Possono avvenire anche durante il sonno, possono apparire anche in stati meno coscienti. Nel mio caso spesso le nuove ricette prendono spunto e prendono il via da esperienze, anche viaggi gastronomici. Come tu sai, io ho viaggiato anche in Oriente, ho dei bellissimi ricordi dell'India e spesso quando poi torno in Italia cerco di ripresentare certe esperienze che ho vissuto sotto forma di piatti, di preparazione di ricette, non utilizzando gli stessi ingredienti indiani, ma prendendo, come dire, dei principi e poi cerco di applicarli alla nostra realtà. Fammi un esempio dell'ultima ricetta che hai sperimentato. Ma ne sperimento tante, cioè sono, questa è una domanda secondo me che dovresti formulare una casalinga, a me è un pochino più difficile, nella giornata di ieri ne ho sperimentate 20, 30, devo scegliere una di queste, mi piace moltissimo ad esempio prendere della frutta matura, cuocerla insieme a dell'alloro, la scorza di limone, poi frullare questa purea di frutta, a mo' di cappuccino, sai, puoi servirla questa purea in un bicchierino, e poi magari decorare questa purea con della spuma fatta con il latte di mandorla. Questa è una cosa che ho fatto nei giorni passati. Ieri ho cercato di affumicare anche questa frutta per vedere un po' il risultato che veniva fuori. Ti è mai capitato di trovare una nuova ricetta per errore? Succede molto spesso. Succede molto spesso non tanto nella ricetta ma anche nella forma sua espressiva. Quindi la forma di presentazione, a volte tocchi il piatto, lo smuovi e rompendo la geometria a volte si possono ottenere delle forme espressive straordinariamente più belle rispetto a quello che tu cercavi di realizzare con tanta mentalità, con tanta logica e razionalità. Allora invitiamo i nostri ascoltatori in via Bergamo numero 58 ad assaggiare le ricette di Simone Salvini in un ambiente decisamente moderno, la formula è global, posso dire, con un'attenzione all'ambiente, con un'attenzione ai consumi, con un'attenzione al basso impatto. Che cosa hai in mente di fare? Perché hai parlato anche di nuovi progetti, mi hai fatto vedere degli scarabocchi molto interessanti. Sì, quelli sono dei disegni, sono delle urgenze interiori, ovvero, come tu sai, questo è un locale molto popolare, dell'aspetto bellissimo di questo locale, della forza di questo locale, e tuttavia c'è un Simone ricercatore, un Simone creativo, e ha bisogno ogni tanto di sperimentare anche cose ardite, e quindi la cucina vegana e la cucina vegetariana sono delle cucine d'avanguardia, e non è detto che si debba sempre copiare le alte tradizioni, a volte queste tradizioni culinarie vegetariana e vegana possono andare anche per una strada tutta loro, indipendente. Io cerco di fare questo anche poi nella loro espressione sul piatto, quindi sapori, consistenze, cromature, e i disegni che ti ho fatto vedere prima sono degli schizzi, sono delle idee che poi io realizzerò nei prossimi mesi. Umani, letteratura per la liberazione. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera. Aida Vittoria Eltanin, in arte conosciuta come La Dieta di Eva. È una blogger e una scrittrice, perché adesso è uscito il suo libro La Dieta di Eva, appunto. Ciao. Ciao. Come nasce questa tua sensibilità al tema del cruelty free? Ero già vegetariana e vegana e vedevo intorno a me tantissimi vegani e vegetariani parlare sempre di seitan, tofu, soia, e tanta gente storcere il naso intorno a me, i miei amici, la gente con cui parlavo. Al che mi sono detta, possibile che la dieta vegana debba essere comunque sempre associata a questi cibi? Ho cominciato ad andare un po' a fare ricerca storica, cosa mangiavano i bisnonni, e ho visto che alla fine la cucina, diciamo, frugale dei nostri nonni era il 90% già vegana di suo. Quindi ho semplificato la cucina vegana, l'idea di alimentazione vegana, ho tolto tutti questi prodotti e sono tornata a fare ricette molto semplici e ho deciso di far passare questo concetto, cioè che vegano non vuol dire altro che la nostra cucina tradizionale italiana mediterranea, molto molto semplice, frugale, e dei nostri bisbisnonni appunto, che poi la cucina ho chiamato di Eva perché, per tornare alla semplicità della frutta, anche mangiando molto più frutta, quindi il cibo di Eva. Ma ti chiedo, questa tua attività di blogger ha avuto un enorme successo. La dieta di Eva su Facebook, io l'ho conosciuto attraverso Facebook, ha tantissimi amici, tantissimi followers, non so come si dica, e tu hai fatto delle proposte rivolte anche agli onnivori di fare una sperimentazione 21 giorni nell'Eden. Spiegaci questa tua proposta. È partita quasi come un gioco, ho detto, ma neanche una semplice offerta, dire: se non sapete cosa cucinare e volete passare a vegan ma non sapete come, io per 21 giorni vi do una ricetta al giorno e un menù, diciamo un menù non a livello dietetico, mangio tot grammi, ma un menù tipo da ristorante. Io vi faccio un ristorante, vi dico cosa potete mangiare e vi do le ricette tutti i giorni. Stiamo insieme come gruppo e ci si aiuta a vicenda, ci si sostiene. Io ho buttato l'idea, invece di mi aspettavo 50-100 onnivori, ne sono arrivati 900. E è stato bellissimo perché hanno visto che si può mangiare appunto in modo molto semplice, senza tanti prodotti che dovevano andarsi a comprare in negozi specializzati. Invece hanno trovato tutti gli ingredienti al supermercato, al fruttivendolo, dal fruttivendolo. Quanto tempo ti ha preso questo progetto da blogger e soprattutto quello del gruppo 21 giorni nell'Eden? Io presumo che ci sia dietro un lavoro di pianificazione importante, perché tu hai anche fatto le riprese a tutte le ricette, quindi si vede benissimo come tu le fai, hai dato gli ingredienti. È un lavoro complicato perché 900 persone poi ti fanno le domande e tu non puoi non rispondere, e quindi volevo capire come erano queste tue giornate. Sì, io ho fatto la proposta, ho detto: se volete lo facciamo un po' alla buona e cominciamo subito, se mi date tempo facciamo fra un mese, partiamo e mi date il tempo di lavorarci. Hanno tutti chiesto di darmi il tempo di fare una cosa fatta bene, allora mi sono presa un mese. Per un mese ho lavorato a creare schede che ho messo sul mio sito, ogni giorno una scheda con una ricetta, appunto il menù da ristorante, il consiglio preso da video magari di nutrizionisti, in modo che qualcuno poteva andare poi su YouTube a leggere su informazioni, non so, sulla B12 piuttosto che dove si prende il calcio, e poi una ricetta crudista anche tutti i giorni davo. E poi sì, mi ha preso quindi un mesetto prima, ore e ore tutti i giorni per i 21 giorni che ho seguito la gente, però è stato molto molto bello. Come nasce questo tuo desiderio di essere attivamente vegana, diffondendolo anche tra gli altri? Tu come hai cominciato questa tua sensibilità? Ci sei nata? È successo qualcosa per cui hai aperto gli occhi? Credo di essere sempre stata molto sensibile, molto amante degli animali, però ho visto un video, è stato bastato un video sulla macellazione degli animali, per me è stato uno shock terribile. Dal giorno dopo io ho tolto tutti i prodotti animali, quindi è stato immediato. E al tempo però non c'era nessuna informazione, io purtroppo, non sapendo come alimentarmi, mi sono buttata all'inizio su formaggi, uova, perché ero vegetariana all'inizio, quindi squilibrando tantissimo i grassi e mangiando troppi grassi, poca frutta, perché si aveva il mito che faceva ingrassare, quindi purtroppo mi serviva un libro come quello che poi alla fine ho scritto io. Ho detto: io scrivo un libro che sarebbe, io lo volevo chiamare il manuale all'inizio, un manuale pratico, tendo a essere piuttosto pratica. Volevo qualcosa che avrei voluto io al tempo, senza ricette strane, come sostituire nei dolci il latte, qualche trucco, cose molto semplici di ricette, qualche informazione di base proprio per sapere da dove si prende il calcio. Dovremmo tutti saperlo, dovremmo impararlo a scuola, che non c'è solo il latte e che a loro volta le mucche da dove lo prendono? Dalle foglie verdi, dall'erba. Quindi ecco, ho messo insieme questo manuale perché sapevo che c'era gente come me che voleva togliere prodotti animali ma non sapeva come. Ho aiutato con questo strumento e sono molto contenta. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali!